Steve a mis au point différents réservoirs. Statement any minute from now. 1-0 up. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile. Ben ritrovati alla finestra sul cortile da Cristina Battocletti, fumetti, internet, vacanze e molto altro nella nostra rassegna internazionale sulla cultura, ma sentiamo il sommario. Kuwait, Wonder Woman e Ramzi, Superman e Jabba, gli eroi dei fumetti americani e quelli musulmani si incontrano. Germania, arte al lavoro, artisti internazionali rappresentano impiegati e disoccupati. Francia, bellezze al bagno. Un libro racconta il rapporto tra l'estate e il nostro corpo. Una storia lunga un secolo. America, la rivincita dell'anonimato. Una rivista pubblica solo articoli non firmati. Francia, la e-reputazione. In America, sempre più società si occupano di cancellare dal web tracce compromettenti della vita delle persone. Inghilterra, un mondo senza uomini. Cosa cambierebbe se gli uomini sparissero dal nostro pianeta? Sono dotati di poteri sovrannaturali, si allungano, corrono e combattono il male. Sono supereroi musulmani, il suo autore è Naif al-Mutawa. Sembra strano? Forse soltanto per chi confonde islamismo con integralismo. Ed è proprio per questo che l'autore ha voluto, diciamo, smitizzare questo binomio che genera confusione e vuole combattere proprio l'idea di questo integralismo uguale islamismo. Naif al-Mutawa, autore ed editore kuwaitano del fumetto di successo I-99, con i suoi supereroi Ramzi, Jabba e molti altri, parte all'assalto del suo più grande nemico, l'estremismo. Dovevo trovare un modo per riprendermi l'Islam dalle mani di chi lo tiene in ostaggio, ha detto. Ha spiegato in una lettera pubblicata sul sito della BBC. Il bell'articolo invece che racconta questa storia è stato pubblicato sul magazine francese L'Express. Il nome I-99 deriva appunto dai 99 attributi di Allah. Ciascun supereroe incarna una di queste qualità, dalla clemenza alla generosità fino alla saggezza, e tutti insieme, uniti, combattono le forze del male. Il risultato, un trionfo. Creato nel 2006, il fumetto ha venduto fino ad oggi 1 milione di copie al mese in più lingue, e il magazine americano Forbes l'ha messo nella classifica delle prime 20 tendenze che governano attualmente il mondo. Ma il successo è tale che ha sconfinato il campo del fumetto. Un parco tematico è stato inaugurato quest'anno in Kuwait. La compagnia Endemol ha poi deciso di produrre un cartone animato, ma non è finita qui. Quest'anno il fumetto sbarca anche in Francia, mettendo in difficoltà i supereroi tradizionali, dall'Uomo Ragno a Wonder Woman a Superman. All'inizio, spiega l'editore francese Domar Idrissi, editore di Rai Media, il primo volume Raimag sarà distribuito gratuitamente nella zona di Marsiglia, dove l'immigrazione magremina è più forte. Poi si affronterà il mercato francofono fino ad estendersi in Canada. Il primo banco di prova, quello commerciale, avverrà con un fumetto in cui al-Mutawa ha debuttato, cioè si parla della storia del piccolo figlio di Genghis Khan e della sua orda barbarica che si stabiliscono a Baghdad. Benché l'area sia orientale e musulmana, i 99 conservano però la grafica dei supereroi che già conosciamo e incarnano la lotta del bene contro il male. Ma li ha letti per noi Paola Caridi, giornalista a Gerusalemme per Lettera 22, che scrive anche per Il Domenicale, autrice di Arabi Invisibili e Hamas con Feltrinelli. Bentrovata Paola Caridi. Grazie, bentrovata a te. Ci può raccontare quando li ha scoperti? Perché lei li ha scoperti molto tempo fa. Beh, proprio nel 2006, nel senso quando Naif al-Mutawa ha deciso di creare i 99. È uno psicologo di formazione, è diventato un imprenditore, ha avuto la capacità di prendersi la distribuzione di Marvel e di DC Comics, cioè dei più grandi fumetti al mondo, dei fumetti americani come Batman, Superman, eccetera, per il mondo arabo. E nello stesso tempo però ha curato quest'altra parte, cioè quella degli eroi del proprio mondo. Una delle prime cose che mi ha detto 3 anni fa è stata: il mio mondo non ha eroi e non ha dunque supereroi, nel senso che lui, kuwaitiano, che vive negli Stati Uniti, sentiva questa mancanza di avere un prototipo positivo che c'era negli secoli passati, nel senso che Saladino, che per noi italiani è il feroce Saladino, Invece per il mondo arabo è Salah ed-Din, cioè il più grande eroe, il più grande guerriero che c'è stato nella storia araba. E però nel mondo contemporaneo questo eroe, questo supereroe non c'è più. Allora lui ha deciso di, soprattutto dopo l'11 settembre, questo stereotipo enorme sugli arabi, ha deciso di crearne non più uno ma 99. Lui dice, spiega nella lettera che avevo citato, quella sulla BBC dedicata ai suoi figli, ai suoi quattro figli, lui dice... Era anche semplice perché era la moltiplicazione di 9 per 11, cioè 9-11, cioè l'11 settembre, e dall'altra parte però 99 è anche appunto il numero degli attributi di Dio. Dio per il mondo musulmano, per l'Islam, ha 99 attributi che sono tutti attributi positivi, appunto la forza, il coraggio, la saggezza, la compassione. Ognuno di questi supereroi rappresenta uno degli attributi di Dio, ma non è forte come Dio, ma ha alcuni degli attributi di Dio. Ecco, c'è la lotta del male contro il bene, ma diciamo non è una lotta attuale, no? Come poteva essere Capitan America contro il comunismo, diciamo è senza tempo. È senza tempo, certo, è senza tempo. Ci sono ovviamente riferimenti al tempo reale, cioè appunto quella cosa che si citava della biblioteca di Baghdad che viene incendiata nel 1258, è come dire una dei vulnus, delle ferite che più hanno inciso sugli arabi, e peraltro questo fumetto è nato dopo il 2003, quando per l'ennesima volta la biblioteca di Baghdad è stata incendiata dopo la guerra in Iraq. Ma a parte questi rapporti con il tempo reale, che peraltro sono rapporti anche all'interno dei fumetti, nel senso che questi 99 supereroi nascono da gemme che sono state salvate dall'incendio del 1258 della biblioteca di Baghdad, e rappresentano il tesoro della conoscenza, e sono rinati come supereroi in un tempo attuale, cioè in un tempo contemporaneo. Però la lotta del bene contro il male è ovvio che va oltre i confini temporali dell'oggi o del passato. Ecco, che pubblico hanno questi fumetti? Soprattutto i bambini e i ragazzini, insomma, sono come i ragazzini di tutto il mondo. Si guardano, hanno le carte di Yu-Gi-Oh! Piuttosto che di Pokémon, e si guardano i cartoni animati su NBC3, in questo caso il canale generalista più forte del mondo arabo, che trasmette cartoni animati. C'è un'eroina che porta il burqa, è vero? C'è un'eroina che porta il burqa, c'è un'eroina che porta l'hijab, ci sono altre senza velo, nel senso che poi viene dato anche questa diversità all'interno del mondo musulmano. Noi spesso, appunto, per l'ennesimo stereotipo che abbiamo, vediamo tutte le donne con il burqa. Intanto il burqa non è arabo, perché il burqa è afghano. Diciamo il niqab, che in arabo significa appunto questo velo completo nero che si usa soprattutto nella penisola arabica, e però c'è l'eroina che ha lo hijab, cioè questo fazzolettino, questo fularino che copre i capelli ma non copre per niente il viso, anzi il viso è molto truccato e molto appariscente, anzi spesso nel mondo arabo. Poi ci sono altre eroine che non hanno il velo, hanno il capo scoperto e non sono neanche arabe. Bene, grazie a Paola Caridi. E grazie a voi. E ora in Germania, perché apre a Rüsselsheim una mostra internazionale dedicata ai lavoratori come oggetto di rappresentazione artistica. Tra foto di artigiani finnici o lituani, ritratti da artisti dei rispettivi paesi, molti anche cittadini della stessa Rüsselsheim che sono stati fotografati appesi alle pareti. Sono i dipendenti della Opel, il cui stabilimento principale in Germania ha sede proprio in questa cittadina dell'Assia. Tra loro il sardo Guido Casu, che racconta: quando ho iniziato la Opel pensavo di rimanermi al massimo un anno. Ora ne sono passati ben 34. Un destino capitato a lui come a tanti altri colleghi italiani finiti oltre le Alpi. Alcuni di loro si trovano a Rüsselsheim da così tanto tempo che ora sono diventati letteralmente dei veri pezzi da musei. Per vederli, www.opelvillen.de. Stendersi a prendere il sole è un fatto storico, così racconta il francese Christophe Granger in Le Corps d'été sull'Express. Le Corps d'été, il corpo dell'estate, è un nuovo libro che racconta come si pone il corpo in estate. Il problema, racconta l'autore, si pone verso primavera, quando soprattutto le donne cominciano a preoccuparsi della prova costume. E analizza questo volume come è cambiato il concetto del corpo attraverso i secoli proprio in estate. All'inizio può sembrare un argomento frivolo, spiega Granger, ma dietro questa superficialità ci sono dei cambiamenti sociali e culturali notevoli. La coincidenza con l'estate e con le vacanze è un concetto che si è costruito soltanto nel 800 e ha profondamente modificato il rapporto con il nostro corpo. Secondo l'autore, con l'estate il corpo cambia significato e maniera di apparire, tutto ad un tratto diviene centrale, tutti cambiamenti sociali, familiari e affettivi si riorganizzerebbero attorno a lui, che invia segnali che noi dobbiamo intendere e interpretare. Per esempio, nel Settecento l'estate veniva salutata come una sventura, il corpo era coperto completamente, il caldo era infernale e sprigionava tra i tessuti con il sudore dei microbi e problemi di igiene, ma non si poteva fare nulla. Nell'Ottocento invece i borghesi e i nobili andavano in spiaggia, sì, ma si bagnavano completamente vestiti e le donne passeggiavano abbigliate severamente, riparate soltanto da un ombrello. Attorno al 1950, soprattutto in America, iniziarono alcuni movimenti in cui le donne si esibivano in costumi interi che scoprivano gambe e braccia, ma un'ondata di arresti cercò di fermarli con l'accusa di oltraggio al pudore. Poi c'è stato il 68, il nudismo, il topless, la moda brasiliana, e ora appunto questo volume analizza il perché di tutti questi cambiamenti e fa riflettere sulla storia. La finestra sul cortile. Digitare il proprio nome sul motore di ricerca e vedere cosa esce può essere divertente, ma anche preoccupante. Il magazine americano Inrocks.com racconta che il 40% degli americani si preoccupa appunto della loro googolizzazione, cioè della ricerca attraverso Google di informazioni su di loro, dal profilo professionale alla vita privata. La e-reputation, così la chiamano gli informatici, sembra diventare una questione portante. Secondo gli esperti, su Twitter per esempio, continuano a crescere domande su come controllare le proprie informazioni sul web, e quindi nasce la necessità di fare ciò che prima era necessario soltanto per i politici, cioè gestire la propria immagine. Le società che ripuliscono l'identità sul web si stanno diffondendo e moltiplicando negli Stati Uniti. Reputation Defender, Trust, Claim ID, così si chiamano appunto queste società che propongono tutti più o meno gli stessi servizi: togliere dal web quegli elementi che nuociono alla reputazione, da foto troppo intime a mail personali. Nel web rimane qualsiasi traccia del nostro passaggio, dalle informazioni che facciamo noi stessi, che formiamo noi stessi, alle notizie che permettono di identificarci. Così le società che aiutano a gestire la e-reputation hanno escogitato alcune, diciamo, stratagemme. In realtà è ben difficile togliere un'informazione dalla rete. La maniera più efficace è il cosiddetto bombing, cioè si aggiungono altre informazioni che noi vogliamo diffondere su noi stessi in modo tale che siano le più cliccate, per far dimenticare quelle che non ci piacciono. Un'altra soluzione è quella di contattare il diffusore dell'informazione e negoziare con lui la cancellazione. Questa pulizia sembra quasi un'influenza che invade il net, e ci si pone una domanda: dove finisce la libertà di espressione e dove inizia la vita privata? Secondo gli esperti ci sono due vie: o promulgare una legge che promuove il diritto all'anonimato, secondo cui nessuno può essere citato senza autorizzazione, come nel diritto all'immagine, ma estendendo tutti gli effetti a tutti gli ambiti, gli attributi della personalità. Altri invece sostengono che la migliore maniera di proteggere la propria identità in rete è quella di pubblicare da sé le informazioni, per esempio creare un sito o un blog da aggiornare con costanza, perché questo sia il primo testo da considerare come il risultato di una ricerca. Ma abbiamo in linea un giornalista esperto di tecnologia per Repubblica, Jaime D'Alessandro. Ben trovato, Jaime. Grazie. Ci può spiegare meglio questo fenomeno, e soprattutto se in Italia ci sono questo tipo di società che si sono diffuse negli Stati Uniti? Sì, ce ne sono alcune. Ovviamente è uno di quei fenomeni che non a caso nasce negli Stati Uniti. Insomma, in Italia francamente di persone che hanno bisogno di controllare la propria immagine sono già persone che lo fanno in qualche maniera o dovrebbero farlo. Ci sono però dei momenti nella vita di alcune persone in cui per esempio si diventa immediatamente noti oppure per un qualche motivo appunto si finisce sotto i riflettori. A me veniva in mente la storia per esempio di Ria Butto, che è il figlio di Benazir Butto, ovviamente salito sul palcoscenico internazionale all'indomani dell'uccisione della madre, e ricordo che appunto la sua pagina su Facebook fu presa d'assalto, perché di questo, in fondo, questo ragazzo nessuno sapeva niente e molti giornali inglesi riuscirono a trovare immagini, a trarre molte informazioni da quelle pagine. In quel caso la pagina poi fu congelata, perché effettivamente alcuni siti di social networking non cancellano esattamente la pagina, ma la congelano, quindi la mettono in ibernazione, e in qualche maniera questo vuol dire che quei dati sono sempre e saranno sempre in qualche maniera accessibili. Ecco, questi casi qua sono casi dove ovviamente il controllo della propria immagine online è una cosa molto importante, ma questo può essere vero anche per direttori o persone che dirigono aziende che hanno quindi un'immagine pubblica. Perché le informazioni di qualcuno possono diventare oggetto di interesse e quindi possono diventare un pericolo, ovviamente questo qualcuno deve avere qualche elemento di interesse. Noi persone comuni tendenzialmente non credo che corriamo rischi di questo genere. Ma in Italia si può fare? Ma in Italia si può fare intanto, voglio dire, in Italia il grande fenomeno, quello che voglio dire ha fatto esplodere la vita privata di tutti online, è stato Facebook. Negli ultimi 2 anni i numeri sono stati talmente esplosivi che ormai è diventato per alcuni quasi sinonimo, cioè la rete è diventato sinonimo di Facebook. Come dicevo prima, la propria pagina si può congelare, su Twitter già è più semplice perché tutto sommato le informazioni personali o la centralità della persona è meno sotto riflettori, in realtà è quasi un blog Twitter, quindi uno aggiorna, dice quello che sta facendo, però voglio dire è più difficilmente tracciabile un profilo personale delle persone. Ma e per contrastare questa, diciamo, effluvio di informazioni c'è solo il bombing, come spiega l'articolo? No, tendenzialmente se uno ha questo problema o pensa di averlo, la prima cosa da fare è ovviamente non attivare nessuno di questi strumenti. Perché è vero che può essere un'idea il fatto di avere un blog o di avere un profilo ben delineato che uno controlla, però in realtà insomma basta non aprire un profilo. La cosa che io trovo interessante ed è successo recentemente con alcuni scandali politici tutti italiani, sono quei software di, ce n'è uno della Apple, ma ne stanno nascendo tanti, tanta gente sta lavorando su questo perché in realtà è il futuro, sono gli algoritmi di riconoscimento delle immagini e dei video, cioè quegli algoritmi che consentono di rintracciare il volto di una persona qualsiasi all'interno del grande mare magnum di immagini e video che navigano su internet. Sappiamo da ricerche di alcune importanti compagnie che nel giro di 4 anni il traffico online crescerà di 5 volte, e questo sarà soprattutto ovviamente in relazione ai video. Ecco, questi software possono rintracciare i volti, quindi possono rintracciare il nostro volto in un'immagine che è stata pubblicata da un amico o da un video girato da un'altra persona. Questo francamente credo che sia per qualsiasi società, anche se specializzata, molto molto molto complicato da controllare. Ma hai idea di quanto può costare un'operazione del genere? Per esempio rilevare la propria fotografia che è troppo intima e che ritiene... Ma il costo dipende ovviamente dalla persona, insomma. È ovvio che se stiamo parlando di per esempio un personaggio pubblico di qualche tipo, la sua immagine è moltiplicata n volte. Se parliamo della nostra, del nostro profilo, cioè io a un certo punto decido che voglio scomparire dalla rete, beh, il costo ovviamente è abbordabile, stiamo parlando di qualche centinaio di euro. Bene, grazie a Jaime D'Alessandro. Grazie a voi. E ora la notizia dal sito UTNE che riporta l'idea di un giornale completamente anonimo. Nessuna firma, solo contenuti. Un'arma a doppio taglio. Nessuno sarà responsabile di ciò che scrive, tranne il direttore che però è anonimo, ma non si assisterebbe più a quei fenomeni di narcisismo giornalistico che tanto fanno male all'informazione. Una maniera per celebrare il testo, hanno spiegato gli ideatori. Bomb, così si chiamerà il magazine, secondo molti un'ispirazione e un rinforzo per la democrazia. Si può ordinare una copia in internet, basta digitare su un motore di ricerca The New Anonymous. Nel sito del giornale, al posto delle facce, qualche sedia vuota e una poesia di Emily Dickinson, il cui incipit è «Sono nessuno, chi sei tu? Sei anche tu nessuno». L'articolo che riporta la notizia, per ironia della sorte, è firmato. E ora il Guardian, che con la faccetta di un Big Jim con tanto di cicatrice, riporta un articolo di Tania Claim che riflette sulle conseguenze di una notizia scientifica. Gli scienziati infatti stanno lavorando per riprodurre lo sperma maschile in laboratorio. Teoricamente gli uomini allora non servirebbero più per la riproduzione. E allora come sarebbe il mondo senza uomini, si chiede Tania Gold? Sarebbe un mondo pieno di donne che si ingozzano di dolci e spaghetti e che stanno incollate a Dallas. Ma a parte queste frivolezze, l'autrice fa una riflessione sulla guerra. Secondo l'autrice sarebbero soprattutto gli uomini i guerrafondai. La guerra è necessaria, dice, per i cambiamenti sociali, ha sventato il nazismo, ha tirato fuori dalle cucine le donne, ma in generale le guerre sono una brutta cosa e secondo l'autrice le donne di loro iniziativa non ne scatenerebbero nessuna. Poi parla di altri settori tipo la leadership. L'autrice rileva come Ivan il Terribile e Stalin commettessero delle nefandezze per consolidare il proprio potere, mentre le donne no. Invece noi pensiamo anche a Elisabetta I, che aveva fatto uccidere per esempio delle vergini anche se aveva praticato la tolleranza religiosa, oppure a Imelda Marcos, che assieme al marito si era macchiata di molti crimini. E poi altri sono i campi in cui si rifletterebbero le conseguenze della scomparsa degli uomini, per esempio la religione. Nessuna delle donne è leader in questo campo e non fa delle sciocchezze come molti capi religiosi, dice l'autrice. Poi l'ambiente, la psicologia, l'industria cosmetica andrebbe a picco e tutte le donne sarebbero probabilmente grasse perché non avrebbero nessuno da attrarre. La musica sarebbe una tragedia senza Elvis e Frank Sinatra, nessuna canzone d'amore, i testi parlerebbero probabilmente solo di bambini. La letteratura invece avrebbe una parità come sempre e il cinema sarebbe un disastro senza tensione, amore e spari. Il tempo a nostra disposizione è finito qui, un grazie caloroso a Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, a Giorgio Mattei in regia. Cristina Battocletti vi saluta e vi augura un buon fine settimana. La prossima settimana tornerete in compagnia di Riccardo Chiaberge.